Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il giorno dopo la grande impresa sportiva firmata alle Olimpiadi di Parigi dalle spadiste friulane Giulia Rizzi e Mara Navarria, che si sono aggiudicate la medaglia d'oro con la squadra azzurra nella finale della spada battendo la Francia all'ultima stoccata nel minuto supplementare. Per il governatore Fedriga una vittoria che rende orgoglioso tutto il Friuli Venezia Giulia. Rissa con alcuni contusi tra gruppi di giovanissimi ieri sera a Cividale del Friuli, nella zona della vecchia stazione ferroviaria, per i soliti futili motivi si sono affrontati alcuni minori stranieri non accompagnati, ospiti del Civifor, ma ragazzi del posto, per una spedizione punitiva. In prefettura a Trieste una riunione urgente del comitato di sicurezza richiesta dal sindaco di Muggia Polidori per discutere di misure di controllo e prevenzione più strette contro il problema dei giovani che tra la stazione della cittadina e il lungomare creano schiamazzi e tensioni. Si conferma la solidità dell'economia del Friuli Venezia Giulia, che nel periodo post pandemico, a fronte di un quadro geopolitico ed economico connotato da forte instabilità, ha registrato un tasso di crescita al di sopra della media nazionale ed europea. Così la valutazione dell'ufficio analisi di Confindustria Udine. Venerdì 2 agosto lo sciopero territoriale di operai agricoli e florovivaisti in vista dell'imminente vendemmia per richiedere il rinnovo dei contratti di lavoro regionali. In Friuli Venezia Giulia il rinnovo contrattuale riguarda oltre 18.000 occupati, di cui 15.000 a tempo determinato. Con la stagione estiva che supera a fine mese il giro di boa, è tempo di primi bilanci per il turismo montano. Andiamo allora a Sauris per scoprire come stanno andando le cose per gli albergatori e commercianti del luogo. Le 12:32 minuti in questo istante, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Beyerz e Maria Spezia, in studio a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 31 luglio. In apertura torniamo alla grande impresa sportiva firmata ieri alle Olimpiadi di Parigi dalle spadiste friulane Giulia Rizzi e Mara Navarria, che si sono aggiudicate la medaglia d'oro assieme alla squadra azzurra nella finale della spada, battendo la Francia in casa proprio della Francia, l'ultima stoccata nel minuto supplementare. Per il governatore Fedriga si tratta di una vittoria che rende orgoglioso tutto il Friuli Venezia Giulia. È il primo oro nella spada femminile per l'Italia, un risultato storico per le Olimpiadi che porta anche il nome dell'udinese Giulia Rizzi e di Mara Navarria di Carlino, le due friulane colonne del quartetto dell'Italspada femminile insieme alle siciliane Rossella Fiammingo e Alberta Santuccio, sono state protagoniste della pedana sotto il tifo infuocato del Grand Palais di Parigi. Contro le francesi padroni di casa l'incontro è stato equilibrato fino all'ultimo secondo e anche oltre. Il punto decisivo arriva al minuto supplementare del nono assalto dopo ben due colpi doppi e lo realizza Santuccio per la gioia di tutti, ma le friulane sono state decisive per tutta la gara. Giulia Rizzi esplosiva al settimo assalto con una rimonta di 5 punti, lascia spazio all'ottavo assalto di Mara Navarria, 39 anni, alla sua ultima Olimpiade, un incontro in cui tira poco, ma è lei che con una grande stoccata porta in vantaggio le azzurre. Il resto poi è storia. Mara Navarria. Chiudere con un oro, io sono felicissima, essere capitano di questa squadra, anche se ho tirato poco oggi, ci sono sempre stata in questo periodo, in quest'ultimo anno dove noi ci siamo qualificate per arrivare qui. Per l'azzurro di Dario Chiadò, queste Olimpiadi sono state una cavalcata trionfale, prima contro l'Egitto, la semifinale con la Cina e ora la vittoria a Parigi, città che nel destino di Giulia Rizzi. Vincere qua per me è stato fantastico perché ci ho vissuto appunto 6 anni e vincere davanti al pubblico francese per me è stata una specie di rivincita. Una medaglia d'oro che vale come una rivincita anche per i risultati degli ultimi giorni. Lo ricorda anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che a Mara Navarria dedica un ringraziamento speciale. Siamo felici perché oggi siamo andati a riprendere qualcosa che pensiamo nei giorni passati ci saremmo meritati e soprattutto felice per queste ragazze. Anni di sacrifici, soprattutto devo dire a Mara che insomma è una mamma meravigliosa, percorso che parte da lontano. Grazie. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Subito dopo l'impresa è cominciata la festa che accompagnerà il ritorno delle due spadiste friulane a casa con la medaglia d'oro, in particolare per Mara Navarria. Si tratta della seconda medaglia olimpica dopo il bronzo conquistato a Tokyo 2020. Siamo andati nella sede della società dove l'atleta di Carlino ha mosso i primi passi della sua attività sportiva. Ci apre le porte della storica sala della Gemina Scherma di San Giorgio di Nogaro Caterina, la sorella di Mara Navarria, con in braccio la sua piccola Nora. Qui è iniziata ad allenarsi da bambina la neo campionessa olimpica squadre di spade nei primi anni 90. È proprio Caterina, ex azzurra di sciabola, a gestire la società oggi. La accompagna tra foto e articoli di giornale il padre di lei e di Mara, Diego Navarria, già sindaco di Carlino. Ieri a casa sua è cominciata la festa per la seconda medaglia olimpica della figlia, il primo oro in quella che dovrebbe essere stata l'ultima gara della lunga carriera della 39enne mamma atleta, come ama definirsi. 4 figli di Diego, tutti indirizzati verso la scherma in questa società guidata a lungo dal compianto Dario Codarin. Una carriera più discontinua, quella di Giulia Rizzi, udinese, alla sua prima Olimpiade a 35 anni, cresciuta nell'ASU, la stessa società di Margherita Granbassi. Tornata in Italia dopo un lungo periodo passato in Francia per ragioni affettive, Rizzi quest'anno ha fatto il botto con il tecnico Roberto Cirillo, che allena anche Navarria. La delusione dell'immediata eliminazione nell'individuale è stata ampiamente compensata dall'oro della squadra, composta da 2 siciliani di Catania e da 2 friulane. Abbiamo solo pianto quando ci siamo sentite al telefono dopo la medaglia, ha raccontato mamma Paola, che insieme al padre Luciano hanno seguito da casa, davanti alla televisione, la gara con le lacrime agli occhi. Ora una società come l'ASU, che fa grandi numeri con la ginnastica, spera che questi successi aumentino l'attrattività di una disciplina che non ha la stessa presa tra le famiglie e i bambini. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi altri atleti regionali sono impegnati alle Olimpiadi di Parigi. Nel nuoto, nulla da fare per il friulano Matteo Restivo, sceso in vasca questa mattina nelle batterie dei 200 dorso e autore del 24esimo tempo in 1 minuto 59 secondi e 5 decimi, che non gli ha consentito di qualificarsi alle semifinali. Nel beach volley, il pordenonese Alex Ranghieri, in coppia con Adrian Carambula, affronterà alle 22 la coppia norvegese Moll Sørum, oro olimpico in carica. Per la vela, la triestina Iana Germani, che con la trentina Giorgia Bertuzzi è impegnata, mentre andiamo in onda nella classe skiff. Ieri la coppia non è andata oltre il 17esimo posto in tutte e 3 le regate, scendendo al 10° posto nella classifica generale a 3 regate dalla conclusione. La cronaca rissa tra 2 gruppi di giovanissimi ieri sera a Cividale del Friuli, nella zona della vecchia stazione ferroviaria. Per i soliti futili motivi si sono affrontati alcuni minori stranieri non accompagnati, ospiti del CIVIFO, e ragazzi del posto, anche se qualcuno dice che questi ultimi fossero arrivati da Udine proprio per una spedizione punitiva, come già accaduto in Friuli. Alla fine del parapiglia ci sono stati alcuni contusi medicati dal personale di un'ambulanza. Per sedare la rissa sono intervenuti i carabinieri, che stanno in queste ore completando l'identificazione dei ragazzi. Il consigliere regionale Roberto Novelli, che ha assistito personalmente alla rissa, segnalerà l'accaduto al prefetto di Udine al fine di adottare le contromisure del caso. È in corso in prefettura a Trieste una riunione urgente del comitato di sicurezza, richiesta dal sindaco di Muggia, Paolo Polidori, per discutere di misure di controllo e prevenzione più strette contro il problema dei giovani che tra la stazione della cittadina e il lungomare creano schiamazzi e tensioni. Arrivano da Trieste alla stazione degli autobus di Muggia nel primo pomeriggio, ma qualcuno lo vediamo già durante la mattina. Centinaia di adolescenti tra i 13 e i 18 anni scendono dalla 20 e prendono la 7 o la 27 con destinazione lungomare, in particolare Molo T o Acquario. Verso le 18 stesso film. I ragazzi arrivano alla stessa stazione per prendere la 20 per il ritorno a Trieste. Tra loro, denunciano cittadini e negozianti della zona, ci sono alcuni violenti che creano risse, schiamazzi, gettano petardi, si sdraiano sui cofani delle auto e lasciano spazzatura in tutta l'area, compresa la pensilina della stazione. Bevono e fumano, ci dice il proprietario di un tabacchi proprio di fronte alla stazione. C'è casino, anch'io qua roba fuori del negozio, ho sempre la paura che mi prendano le cose, trovo ragazzi sulla mia moto che bevono, sputano, non c'è rispetto. A seguito di numerose segnalazioni loro arrivate, Polizia Locale e Polizia di Muggia svolgono controlli coordinati, ma, afferma il sindaco Paolo Polidori, i numeri dei giovani sono troppo grandi e il pericolo di un aggravamento della situazione è alto. Per questo Polidori si è rivolto al prefetto di Trieste e tra poco saranno annunciate misure di controllo e prevenzione più strette per limitare i disagi nella cittadina. Muggia, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. È stata dedicata in particolare contro truffe online, frodi informatiche e accessi abusivi a sistemi informatici. L'Action Day della Polizia Postale, compiuta su tutto il territorio nazionale e in Friuli Venezia Giulia, con iniziative che hanno incluso perquisizioni personali e domiciliari con cui sono stati raccolti elementi probatori. In aumento anche in regione, come nel resto d'Italia, le denunce per frodi informatiche, a fronte di un aumento che a livello nazionale è cresciuto del 10%. Tra le tipologie di truffe individuate emersa quella del falso operatore che prevede una chiamata telefonica fingendosi dipendenti bancari o operatori di polizia per segnalare un accesso anomalo sul conto corrente, in realtà mai avvenuto, e indurre così a trasferimenti di denaro in realtà fraudolenti. Altra truffa frequente, quella di un finto parente che chiede denaro perché avrebbe smarrito denaro o cellulare. Altro sistema fraudolento ancora consiste poi nel pubblicare falsi annunci di vendita online a prezzi molto vantaggiosi. Ognuna di queste azioni ha come scopo quello di carpire dati personali, bancari e le credenziali di accesso ai conti correnti bancari. Per questo motivo la Polizia Postale consiglia di non aprire mai indirizzi internet o messaggi di posta elettronica ricevuti da terzi, ma di collegarsi in modo autonomo al sito o all'app ufficiale degli istituti bancari. Le forze dell'ordine sottolineano poi di non cedere mai dati personali al telefono, via SMS o per posta elettronica. In caso di richieste di soccorso di parenti o amici, si consiglia poi di contattarli in modo autonomo. Fondamentale infine diffidare di annunci che propongono acquisti troppo convenienti. Si conferma la solidità dell'economia del Friuli Venezia Giulia che nel periodo post-pandemico, a fronte di un quadro geopolitico ed economico piuttosto complesso, ha registrato un tasso di crescita al di sopra della media nazionale ed europea. E questa la valutazione dell'ufficio analisi di Confindustria Udine su dati Prometeia aggiornati a luglio, con la previsione di un aumento del PIL regionale di quasi l'1% nel 2024 e nel 2025. Quest'anno il prodotto interno lordo del Friuli Venezia Giulia è previsto in aumento dello 0,9% rispetto allo 0,7% stimato lo scorso aprile e sarà dello 0,8% nel 2025. Alla fine del prossimo anno il PIL regionale potrebbe dunque segnare una variazione del più 5,7% rispetto al 2019 pre-Covid. Sono dati dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine su rilevazioni dati Prometeia aggiornati a luglio. Si conferma così la solidità dell'economia regionale, che nel periodo post-pandemico ha registrato un tasso di crescita al di sopra della media nazionale ed europea. I consumi delle famiglie dovrebbero espandersi nel 2024 ad un ritmo inferiore a quello del PIL, più 0,6%, e di poco superiore, più 0,9%, l'anno prossimo. A fine del 2025 i consumi potrebbero far segnare 2,1 punti percentuali in più rispetto al livello pre-pandemico. L'export, dopo il crollo dello scorso anno, potrebbe attestarsi su un più 5,6% quest'anno per scendere al 4,5% il prossimo, comunque superiore a quello del commercio internazionale. Si stima poi una tenuta del comparto delle costruzioni con un deciso calo però il prossimo anno, mentre si prevede prosegua la moderata crescita in quello dei servizi. Il mercato del lavoro, secondo Confindustria Udine, resta solido. L'occupazione prevista in aumento quest'anno per decelerare il prossimo, anche per il ridimensionamento del comparto edilizio. Il tasso di occupazione è ai massimi passando dal 69,8% di quest'anno al 70,3% del prossimo, mentre la disoccupazione è prevista attestarsi al 5,1% del 2024. L'inflazione dal 5,5% della media del 2023 potrebbe diminuire all'1,2% nel 2024 per poi probabilmente risalire nel biennio 2025-2026, ma rimanendo comunque al di sotto del 2%. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. I finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno scoperto alcune irregolarità durante il festival musicale Bradstock svoltosi lo scorso fine settimana a Fontana Fredda. In particolare, in un esercizio sono stati identificati 3 lavoratori in nero, 2 dei quali hanno invano tentato di darsi alla fuga attraverso l'uscita posteriore del locale. Un terzo commerciante di capi di abbigliamento è stato invece contestato per la mancata emissione di 2 scontrini fiscali. Da inizio anno sono 179 i lavoratori in nero individuati dalla Guardia di Finanza di Pordenone. 96 sono le aziende verbalizzate, per 44 di loro è stata proposta dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro la sospensione dell'attività. È previsto per venerdì 2 agosto lo sciopero territoriale di operai agricoli e florovivaisti in vista dell'imminente vendemmia per richiedere il rinnovo dei contratti di lavoro regionali. In Friuli Venezia Giulia il rinnovo contrattuale riguarda oltre 18.000 occupati, di cui 15.000 a tempo determinato. Sono oltre 18.000, di cui 15.000 a tempo determinato, i lavoratori agricoli del Friuli Venezia Giulia che attendono il rinnovo del contratto di lavoro regionale scaduto a fine 2023, che in base alle norme in vigore determina una parte importante degli aumenti salariali. Per questo, dopo 7 mesi di confronti infruttuosi, i sindacati confederali hanno proclamato una giornata di sciopero per venerdì 2 agosto, con assemblee e una campagna informativa. Stefano Gobbo, segretario regionale, FAI CISL. Le ragioni in questo momento sono di una proposta economica di rinnovo che non copre neanche la metà di quello che è il rincaro del costo della vita. Ovviamente questi sono lavoratori che meritano, per lo sforzo che fanno quotidianamente, un giusto compenso. Maurizio Comand, segretario regionale, FLAI CGL. Avevamo richiesto un aumento dell'8,4% e con una controproposta del 4,5%. Noi auspichiamo che intervenga anche il prefetto di Udine su questo aspetto, in modo che sia a livello nazionale che a livello regionale possano convincere le controparti a ricedersi, a trattare. Sul tavolo, oltre alle rivendicazioni economiche, c'è anche il tema degli appalti e del lavoro nero nel settore agricolo. Pierpaolo Guerra, segretario regionale, UIL Agricoltura. La costituzione presso l'INPS di un registro delle imprese senza terra, che è cosa fondamentale, capire prima di tutto chi opera, come opera e soprattutto se quelle imprese possono avere dei dipendenti. Udine, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Con la stagione estiva che supera a fine luglio il giro di boa, è tempo di primi bilanci per il turismo montano. Andiamo allora a Sauris per scoprire come stanno andando gli affari per gli albergatori e commercianti del luogo, con un'intervista a Paola Schneider, presidente Federalberghi Udine. Una giornata di sole splendente qui a Sauris, località che richiama turisti della montagna friulana. Una stagione che è cominciata tardi, ma sta dando soddisfazioni agli albergatori, agli esercenti, ai ristoratori della montagna. Allora chiediamo a Paola Schneider, che è presidente di Federalberghi per la provincia di Udine, come sta andando questa stagione turistica, questa stagione estiva qui in montagna, in particolare qui a Sauris. Ma diciamo che la montagna friulana è molto gettonata in questo periodo, da luglio fino a settembre sicuramente, non solo dai friulani ma anche da gente proprio fuori, ma anche stranieri. Qui a Sauris in questo momento stiamo lavorando abbastanza bene, diciamo che è concentrato molto da giovedì a domenica, durante la settimana un po' meno, ma insomma sicuramente i numeri cominciano a essere quelli buoni. Bisogna sempre sperare nel tempo, ovviamente, perché la fa da padrone il tempo. Prospettive per il mese di agosto, ci sono prenotazioni? Sì, agosto va quasi da sé ormai, perché è il mese più gettonato e diciamo che oltre ai friulani ci sono molti, molti italiani, soprattutto del nord Italia, che vengono a trovarci. Quali sono le località della montagna friulana più battute? Ma sicuramente in questo periodo qua Sappada e Tarvisio fanno la parte del leone, ma poi c'è Sauris, Forni di Sopra, Sutro e anche Ravascleto, ma anche Arta. Diciamo che queste sono le destinazioni turistiche della Carnia. Poi ci sono quelli che hanno l'albergo diffuso, che stanno lavorando molto bene, proprio perché è un modo alternativo di fare turismo, di essere in vacanza senza avere un po' gli impegni dell'albergo. Sauris, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. E passiamo ora alle condizioni meteo. Il cielo è sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 27 gradi, il mare quasi calmo, temperature di 26 gradi. A Pordenone 28 gradi e 5 decimi, a Udine 29 gradi e 5 decimi, a Gorizia 31 gradi e mezzo. A Sappada 22 gradi e mezzo, a Piancavallo 23 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 24 gradi e mezzo. A Forni di Sopra 25 gradi, a Tolmezzo 27, sul Monte Zoncolan 23 e sulla costa a Grado 28 gradi, con temperature del mare di 26 gradi, a Lignano 29, con temperature del mare di 28 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale: cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Nelle prossime ore sulla zona montana saranno possibili rovesci o temporali isolati, specie verso il Cadore, dove qualche temporale potrà essere localmente forte, caldo afoso in pianura. A Trieste prosegue la raccolta firme contraria alla variante 15 al piano regolatore del comune per richiedere di non costruire l'impianto sportivo comunale Frausin nell'area ex Pavan, bensì di trovare un sito alternativo, così da salvare i 5 alberi del luogo luogo e ripristinare il giardino e il campetto locale, preservando anche il pozzo e gli altri manufatti archeologici. Una via percorribile indicata dagli organizzatori del Comitato Insieme San Giacomo e della rete solidale Campo Libero sarebbe quella di mettere a disposizione delle scuole di via Frausin la palestra minore dell'impianto sportivo comunale Felluga, così da evitare anche la creazione di un autosilo sotto il ricreatorio Pitteri e la conseguente sosta dell'attività del servizio. Oggi sarà possibile firmare, muniti di documento d'identità, nella pineta di Barcola al Benefit per Mediterranea Saving Humans dalle 18.30. Risale al 31 luglio 1954 la spedizione italiana guidata dal friulano Ardito Desio, che salì sulla vetta del K2, la seconda montagna del mondo. Della spedizione faceva parte anche il carnico Cirillo Florianini. In 70 anni l'alpinismo himalayano si è trasformato, passando dalle grandi spedizioni nazionali a quelle commerciali. Il tarvisiano Romano Bennett con la moglie Nives Meroy ha salito il K2 nel 2006 in stile alpino. A lui abbiamo chiesto se quella di 70 anni fa si può ancora definire un'impresa. Una grande impresa senza dubbio, visto i tempi che erano nel massimo dell'alpinismo, che si può ancora definire eroico, no? Si saliva anche per la nazione, non solo per il gusto alpinistico. Poi gli alpinisti l'hanno fatto perché avevano voglia di andare in montagna, però l'impresa era di una portata nazionale, quindi quei tempi un orgoglio nazionale riuscire a salire un 8.000, soprattutto inviolato. E è stata anche salita bene nel complesso, con i mezzi che si usavano quella volta. Poi le cose col tempo sono cambiate, soprattutto da quando è arrivato Messner. Voi avete compiuto un'impresa in vero stile alpino nel 2006, quando l'avete scalato il K2. È stata una stagione bruttissima, da 2 anni nessuno saliva il K2, quindi non c'erano neanche residui di corde fisse, però siamo stati fortunati, nel senso che quando tutti avevano detto che era impossibile salire la montagna, con Nives avevamo fatto un tentativo e da 6008 l'abbiamo salito in perfetto stile alpino, dove non c'era una corda fissa, come si sale sulle Alpi, quindi posso dire che eravamo fortunati di aver potuto salire K2 in quel modo lì, perché non era ancora assediato come al giorno d'oggi. Adesso invece non è più quel tipo di alpinismo. No, adesso chi va al K2, almeno chi va sullo Strone Abruzzi o almeno a quel versante sud, si avvale delle spedizioni commerciali, perché finché le agenzie, soprattutto nepalesi, non attrezzano tutta la via, non si può salire, quindi si aspetta e poi si sale uno dietro l'altro in fila indiana con le corde fisse preparate fino in cima e tutti i campi pronti, quindi io non lo definisco più alpinismo, ecco. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Torniamo allo sport. Con il calcio si schiudono le porte dell'Udinese per un grande talento del calcio europeo, Iker Bravo, è un nuovo giocatore bianconero. È stato acquistato a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Si titola A cavallo del muro, i miei giorni nell'Europa dell'Est, il libro postumo del giornalista Rai Demetrio Volcic, che sarà presentato nella cornice della rassegna letteraria Libri Autori a Grado, in cui sono analizzati decenni di storia dell'Est Europa, prima e subito dopo la cortina di ferro, fino all'avvento del presidente russo Vladimir Putin. Appuntamento a Grado al Velarium della spiaggia Gitt alle 18. Tra i relatori Paolo Possamai, direttore editoriale del gruppo Nord-Est Multimedia NEM, con cui abbiamo parlato dell'attualità contenuta nel libro di Demetrio Volcic. Lui incontra in presa diretta i maggiori attori della scena politica russa e di tutto il mondo, di tutta la galassia che ruotava attorno alla Russia, per l'appunto dagli anni 60 in avanti. Dunque lui ci propone uno spaccato di storia e ce lo propone con la forza di rapporti diretti che ci portano una volta di più alla necessità di un giornalismo praticato in strada e nel confronto con coloro che poi sono i pubblici decisori o che comunque hanno una responsabilità spiccata nelle vicende di pubblico interesse. Se devo sottolineare un fattore di attualità assolutamente straordinario, consiste naturalmente nei potenti interrogativi che evidentemente Demetrio si era posto nell'incontro con una figura che appartiene al nostro presente, ma per la verità è sulla scena da 30 anni, ossia Vladimir Putin. Demetrio Volcic, come pochi altri, coglie nelle parole e nella sorta di tamburo ribattuto della retorica putiniana fin dai suoi esordi la profondità del disegno politico. Il disegno politico di ricostruire non banalmente la Russia, ma propriamente restaurare il disegno della grande Russia, dunque una sorta di afflato da nuovo zar. Noi siamo sorpresi oggi della guerra nei riguardi dell'Ucraina, siamo sorpresi forse anche delle minacce che rivolge alle repubbliche baltiche o a quelle caucasiche, ma senza ombra di dubbio tutto questo traspariva e anzi compariva nelle parole di Putin e nelle analisi di Demetrio Volcic già 30 anni fa. Per gli spettacoli, dopo il successo per il concerto di Antonello Venditti a Maiano ieri, cui hanno assistito oltre 2.500 spettatori, oggi è la volta di Tutti per uno capolavoro. Il titolo del concerto del trio musicale Il Volo, organizzato in occasione dei 15 anni di carriera dei due tenori e un baritono, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Sul palco i nuovi brani dell'ultimo album Ad Astra, in aggiunta ai grandi successi della tradizione musicale italiana e a quelli del proprio repertorio, per mostrare così le molteplici sfaccettature dell'evoluzione artistica dei singoli componenti del gruppo. A Palmanova, in Piazza Grande, porte aperte al pubblico con ingresso da Borgo Aquileia dalle 19.30, mentre l'inizio del concerto è alle 21.30. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. 1914-1918, assente, Odsoten, assente, Odsutan, Abwesend, è il progetto che ricorderà in un sito web i caduti triestini di tutto l'ex litorale austriaco, fiumani e della Val Canale dell'esercito austro-ungarico scomparsi durante la Prima Guerra Mondiale. L'iniziativa, curata dal Club Turisti Triestini CTT, sarà presentata a Trieste al Circolo della Stampa in Corso Italia alle 11. Nuova tappa per la 26esima edizione del Festival Internazionale di Musica e Territori nei suoni dei luoghi, in cui sarà protagonista l'Amadeus Piano Duo, formato da Valentina Fornari e Alberto Nosè, che seguiranno la suite I Pianeti del compositore britannico Gustav Holst nella versione per due pianoforti a Udine, a Palazzo Valvasone, in Morpurgo, alle 21. La Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, città di Trieste, propone Le donne di Puccini, spettacolo musicale dove, partendo da un'immaginaria intervista alla nipote del maestro Di Lucca, si cercherà di capire e approfondire il rapporto tra Giacomo Puccini e l'universo femminile. Appuntamento a Trieste al Museo Sartorio alle 21. Ultimo appuntamento del ciclo Teatro Estate, proporrà il musical per tutta la famiglia La leggenda di Belle e la Bestia, Udine, al Teatro Nuovo alle 20. Si intitola Le avventure di CP, lo spettacolo teatrale dedicato alla avventure di un passerotto, scritte da Mario Lodi e dirette da Lucia Messina, che è incluso nel cartellone della rassegna Verdi d'Estate e sarà rappresentato a Gorizia, a Palazzo De Grazia, alle 21. Notizia di servizio, i lavori per la terza corsia continuano e verranno eseguiti nella notte tra oggi e domani. Interesseranno la rampa che collega la A4 direzione Venezia con la A28. Le operazioni si svolgeranno tra le 22 e le 5 di domani, giovedì, in una fascia oraria solitamente caratterizzata da circa 500 transiti all'ora rispetto ai 3.000 di una giornata d'esodo. Chi viaggia sulla A4 provenendo da Udine Trieste ed è diretto verso Portogruaro Conegliano dovrà uscire allo svincolo di Latisana e, seguendo la viabilità alternativa segnalata dalle frecce gialle, dovrà immettersi sull'A28 allo svincolo di Portogruaro. Nessun problema invece per chi percorre l'A4 in entrambe le direzioni. Ancora un'informazione di servizio: mercoledì 7 agosto prossimo l'eco sportello di Cordenons di via San Pietro sarà aperto anche di mattina dalle 9.30 alle 13. Rimane invariata l'apertura pomeridiana il mercoledì dalle 14.30 alle 17, come il venerdì dalle 9 alle 12.30. Per informazioni via mail sportellocordenons@gea-alto-pn.it, numero verde 800 50 10 77. E si chiude così questa edizione del giornale radio, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Beers, con la collaborazione tecnica di Federico Comare e Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. Prossimo appuntamento con il GR alle ore 15. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.